Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buon pomeriggio a tutti, da Deborah Rosciani, sono le 17.10 e diamo il via anche questa sera a Focus Economia, la puntata con i temi della giornata economico-finanziaria. Naturalmente dovremo necessariamente dedicare molta attenzione alla riunione odierna della Banca Centrale Europea, l'ultimo direttivo di questo anno difficilissimo per l'organismo di Francoforte come per tutte le banche centrali mondiali. Come nelle attese, la BCE ha aumentato il cosiddetto piano pandemico, il piano di sostegno all'economia lanciato la scorsa primavera nelle prime settimane appunto di crisi da Covid, e come nelle attese appunto questo piano è stato ulteriormente implementato, il mercato lo chiedeva. D'altronde la pandemia continua a dispiegare ancora i suoi effetti drammatici non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico, e quindi le banche centrali continuano ad intervenire. Questo piano è stato esteso fino a marzo del 2022. Ci sono altri dettagli rispetto agli interventi decisi oggi da Christine Lagarde, comunicati da Christine Lagarde, da la sentiremo direttamente dalla sua viva voce, appunto l'indicazione fornita oggi, ma per la verità sono state anche espresse delle considerazioni sull'andamento del PIL nei prossimi mesi, e proprio sulla scia di queste indicazioni il mercato ha avuto anche una sbandata di metà pomeriggio. Dopo essere partito bene questa mattina in Europa, le borse nel pomeriggio hanno virato al ribasso in maniera anche decisa, adesso invece stanno provando a recuperare. Segnalo anche un altro tema del giorno che vedo che sta anche dando motivo di recupero alle borse europee, è il petrolio. Il Brent a Londra poco fa ha rivisto la soglia dei $50 al barile per la prima volta da marzo. Anche per il petrolio è stato veramente un anno sulle montagne russe, se considerate che a fine aprile il derivato sul WTI, sul greggio americano, è addirittura scivolato in negativo, finendo a meno 38, meno 40 dollari, per cui anche questo è un tema da monitorare con attenzione. Ma noi appunto sulla Banca Centrale Europea faremo un focus tra poco. Di quali altri temi parleremo questa sera? Della giornata di borsa. Milano in questo momento più 0,07%, alla fine riesce a tenersi a galla. Parleremo di Ilva, oggi si firma un importante accordo per il nuovo ritrovato rinnovo dell'ingresso dello Stato appunto nel capitale della società, quindi un passo importante naturalmente che rimette ancora in una condizione di sicurezza questo gruppo che ha avuto delle sorti sempre particolarmente problematiche, delle quali vi abbiamo raccontato tantissime volte qui a Focus Economia. Poi parleremo anche di scelte finanziarie degli italiani, perché stamattina è stato diffuso un rapporto importante, un rapporto annuale che viene diffuso appunto ogni anno in questo periodo, proprio il rapporto sulle scelte di investimento degli italiani. Ci sono delle indicazioni interessanti, perché naturalmente gli italiani sono molto preoccupati, ce lo dimostrano questi 1.700 miliardi di euro di denaro che staziona sui conti correnti, quindi molta liquidità pronta naturalmente ad essere utilizzata nel caso in cui la crisi derivante dalla pandemia continui ancora a manifestare i suoi effetti così importanti. E però ci sono anche dei segnali interessanti da raccontare che riguardano poi i comportamenti di investimento che le famiglie italiane hanno avuto quest'anno. Una grande fuga dai mercati tra marzo ed aprile, poi un recupero ed un ritorno al mercato azionario, al mercato dei capitali domestico appunto, che si è manifestato e che il rapporto ha evidenziato. Ne parleremo diffusamente più tardi. Poi parleremo anche di fintech, della tecnologia applicata al mondo finanziario. C'è un evento interessante che si sta svolgendo a Milano tra oggi e domani. Se fossimo stati in un momento di normalità, sarebbe stato un evento fisico che si svolgeva appunto a Milano, organizzato dalla Fiera, e invece è tutto disintermediato, tutto da remoto. Ma insomma anche questa è una particolarità che vogliamo raccontarvi questa sera, perché ogni settore economico produttivo prova davvero a convertirsi totalmente all'online, al digitale. Questo era d'altronde già un punto di forza per l'innovazione finanziaria, e chiaramente si sta insistendo su questo aspetto. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi se volete commentare con noi i temi della giornata. Adesso partiamo con le notizie in breve. Ve lo dicevo poco fa, abbiamo oggi un bel fermento sul fronte petrolifero perché il Brent, il greggio del mare del nord, ha rivisto per la prima volta da aprile quota, per la prima volta da marzo, scusate, quota $50 al barile. Il greggio americano, il WTI, il West Texas è a 47,25, quindi continua a crescere, non tanto per l'attesa dell'aumento dei tetti produttivi, poca cosa è stata decisa insieme all'OPEC Plus di settimana scorsa, 500.000 barili in più al giorno dal prossimo gennaio, ma in realtà qua si spera in una ripresa dell'economia, in una ripresa della domanda, quindi sono tanti i fattori che per la verità stanno dietro a questo movimento. Per quello che riguarda l'economia internazionale, ci sono delle notizie che arrivano dalla Cina oggi, dove Fitch, l'importante agenzia di rating, ha rialzato le stime sulla Cina in base alla crescita della domanda interna e delle aspettative sulla richiesta di vaccini anti-Covid, ipotizzando ora che nel 2021 il PIL cinese potrà crescere dell'8%, in settembre il pronostico era del 7,7%. Questo sarebbe ben oltre le nostre previsioni sulla crescita potenziale di lungo termine di circa il 5,5%, ma è piuttosto raggiungibile rispetto alla bassa base di partenza del 2020, hanno scritto in un rapporto gli analisti della società. E ancora le prese con lo stop and go sulla Brexit, oggi la Gran Bretagna insieme a Singapore hanno firmato un accordo di libero scambio. Per Londra si tratta della prima intesa con un paese membro dell'ASEAN e il secondo grande accordo commerciale post-Brexit dopo quello con il Giappone ad ottobre. L'intesa, ha raccontato oggi la BBC, ricalca per la maggior parte quella esistente fra Singapore ed Unione Europea e riguarderà rapporti commerciali per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Allora, una notizia che è di ieri, ma oggi abbiamo la seconda puntata. L'antitrust americano, come sapete, ha messo di nuovo sotto inchiesta Facebook per le modalità con cui sono state acquisite in passato Instagram e WhatsApp. Allora, oggi, dopo questa causa lanciata appunto dall'antitrust americano in ben 48 stati americani, quindi praticamente dappertutto, Facebook si è difesa e ha detto: Instagram e WhatsApp sono diventati gli straordinari prodotti che sono perché Facebook ha investito miliardi di dollari, competenze e anni di innovazione per sviluppare nuove funzionalità e migliori esperienze per i milioni di persone che amano questi prodotti. Il fatto più rilevante, dice il gruppo, che la commissione non menziona nella sua denuncia di 53 pagine è che ha autorizzato queste acquisizioni anni fa. Questa è storia revisionista, dice addirittura Facebook. Le leggi antitrust esistono per proteggere i consumatori e promuovere l'innovazione, non per punire le aziende di successo. In realtà le autorità garanti della concorrenza e del mercato sono estremamente attive ovunque. Devo dire che anche il 2020 per l'Italia è stato un anno di grandissimo fermento. A noi capita di parlarne molto spesso a Radio 24, soprattutto nella trasmissione che conduco il mattino a Due di Denari. Altre notizie di questo tenore arrivano oggi anche dalla Francia, perché l'autorità di Internet ha annunciato di aver condannato Google e Amazon a pagare multe rispettivamente di 100 milioni e 35 milioni di euro, in questo caso per il mancato rispetto della legislazione sui cookies. Lo sapete, sono quei file rilasciati dai siti agli utenti per registrare dati e impostazioni personali. Ci infastidiscono continuamente, dobbiamo sempre dare l'ok, loro in questa maniera ci profilano, ci tracciano, ma non abbiamo alternative. E l'autorità francese rimprovera in particolar modo a Google France e Amazon France la pratica di lasciare tracciati pubblicitari sul computer degli utenti senza aver ottenuto in precedenza il loro accordo, il loro consenso probabilmente. Ritorniamo alla Brexit. Anche se un accordo venisse trovato, non c'è nessuna garanzia che possa entrare in vigore in tempo utile. Per questo dobbiamo essere preparati anche alla possibilità che non ci sia alcun accordo in vigore il 1 gennaio prossimo, e quindi oggi presentiamo le misure contingenti da applicare in questo caso. Così, in un tweet, perché ormai si comunica quasi esclusivamente in questo modo, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che come noto nelle ultime ore ha incontrato il Premier britannico Boris Johnson. Il governo britannico auspica ancora un accordo di libero scambio con l'Unione Europea sul dopo Brexit, ma solo se compatibile con la ritrovata sovranità del Regno. Questo è quanto ha detto alla Camera dei Comuni inglese la ministra Penny Mordaunt, Paymaster General della compagine Tory di Boris Johnson. Johnson, rispondendo seccamente alle interrogazioni dell'opposizione laburista sull'esito dell'incontro di Bruxelles. L'unico accordo possibile, ha ribadito la ministra, è uno che rispetti la nostra sovranità. Infine, parlerò con i miei colleghi della Brexit e dell'importanza di fare tutto il possibile per trovare un accordo commerciale con il Regno Unito in modo tale che le relazioni future siano sostenibili, ma è molto difficile. Nessuno sottostima le sfide, ma è importante per gli europei che facciano tutto il possibile per raggiungere un'intesa, così il premier irlandese Michael Martin. Le notizie del giorno sulle discussioni sul Recovery Fund. Oggi è tempo di concludere. Quest'anno eccezionale sta volgendo al termine. La crisi resa più acuta dalla seconda ondata non fa che peggiorare e non abbiamo ancora un piano di ripresa e un quadro finanziario pluriennale per i prossimi anni. Il bilancio del 2021, su cui il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo, non è stato ancora formalmente adottato. È un passaggio del discorso del Presidente del Parlamento europeo, l'italiano David Sassoli, ai leader europei. Spero che entro domani sia trovata una soluzione che ci permetta di votare il provvedimento. Sono contenta, intanto, ha detto invece Ursula von der Leyen, che si sia trovata una soluzione per sbloccare il veto di Polonia e Ungheria, che come ricorderete appunto nei giorni scorsi, nelle settimane passate, si erano opposti sul bilancio europeo, sul Recovery Fund. La parte sul meccanismo dello Stato di diritto è rimasta invariata, questo per me è fondamentale, ha detto la Presidente della Commissione europea, e spero che il pacchetto da 1.800 miliardi possa avanzare. Una dichiarazione anche del premier ungherese Viktor Orban: i negoziati di oggi per sbloccare il veto sul bilancio sono importanti, ci sono state 4 settimane di negoziati, ma siamo ad un centimetro dall'accordo, ha detto, a favore dell'unità dell'Unione Europea. È chiaro che con la pandemia dobbiamo comportarci ragionevolmente. Una dichiarazione che vi riporto è anche quella di Angela Merkel, la primo ministro appunto tedesco, la presidente tedesca. Oggi vedremo se possiamo raggiungere l'unanimità sul bilancio europeo e il Recovery Fund. La cancelliera tedesca, anzi sarebbe più corretto dire, sarebbe un segno importante della capacità d'azione dell'Unione. Negli ultimi giorni la Germania ha lavorato molto duramente per rispondere alle preoccupazioni dell'Ungheria e della Polonia. E non possiamo farci mancare la dichiarazione anche di Emmanuel Macron, presidente francese: un compromesso sul bilancio europeo e Recovery Fund sta per essere trovato e spero che potremo finalizzarlo nelle prossime ore, ha detto il presidente francese. Andiamo naturalmente al versante italiano. Con le parole del commissario europeo Paolo Gentiloni: penso che sia una proposta molto utile perché ci può far fare finalmente un passo avanti, ha detto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la proposta della presidenza tedesca per sbloccare recovery e bilancio. Non credo sia toccata minimamente l'intesa che era stata raggiunta dal Consiglio con il Parlamento europeo, credo che saranno i leader a valutarla. Credo che tutti siano consapevoli dell'importanza di questa partita europea. Sentiamo una dichiarazione di Gentiloni. Credo che tutti siano consapevoli dell'importanza di questa partita europea e della necessità che l'Italia, come gli altri paesi, converga su priorità e modalità di attuazione. Quindi non ci sono al momento scadenze, c'è solo la necessità di concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi, perché sappiamo che poi, una volta stabiliti gli obiettivi, bisogna anche avere la capacità di rispettare i tempi e di rispettare le scadenze concordate. Qui la Commissione è prontissima a un dialogo appena ci verrà trasmesso, ma direi che il dialogo è già cominciato, che stiamo parlando già con le diverse strutture del governo italiano. Le dichiarazioni del Premier Conte: confidiamo di sbloccarlo, parlando ancora del Recovery Fund, e naturalmente il passaggio di ieri, ha ribadito il Presidente del Consiglio italiano, ha sancito la coesione delle forze parlamentari, dà un chiaro mandato all'Italia per partecipare al Consiglio europeo per completare la riforma del MES, ma soprattutto, chiaramente si riferisce alle vicende politiche italiane di ieri, ma soprattutto per poter giocare un ruolo da protagonista per la nuova stagione che si annuncia in Europa con la conferenza sul futuro dell'Unione europea. L'Italia potrà esprimere l'energia rinnovatrice e contribuire a rinnovare le istituzioni europee. A proposito d'Italia, oggi c'è stata un'altra asta di titoli di Stato messi sul mercato dal Ministero dell'Economia. Ancora una volta dobbiamo testare nuovi rendimenti ai minimi storici. Oggi sono stati collocati BTP a 3-7 anni per 5,75 miliardi di euro complessivi con tassi in calo. Il rendimento del titolo a 7 anni ha toccato il minimo storico dello 0,19%. Nella precedente asta era stato dello 0,35%. Il rendimento del BTP a 3 anni ha segnato un ulteriore ribasso, sperimentando un'ulteriore accelerazione nel territorio negativo, meno 0,30% da meno 0,19% dell'asta di novembre. Benzinai, lo avete sentito anche nel giornale radio, hanno confermato la loro serrata con la chiusura dei distributori dalla sera di lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio del 16, dopo l'intervento dell'autorità garante per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. L'autorità ha chiesto ai benzinai responsabilità per non aggravare una situazione già difficile. E poi, alla data del 7 dicembre, i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall'Agenzia delle Entrate ammontano a più di 9 miliardi di euro, mentre la platea dei beneficiari è rappresentata da 2,4 milioni di partite IVA. Da questo monte complessivo, 1,8 miliardi hanno raggiunto il settore della ristorazione, bar, ristoranti, pizzerie. Più di 2 miliardi di euro sono stati destinati al commercio al dettaglio, quindi supermercati, discount, farmacie, edicole, e quello all'ingrosso, più di mezzo miliardo di euro, al settore dell'edilizia. Questa fotografia oggi l'ha rilasciata la stessa Agenzia delle Entrate. Prima della Banca Centrale Europea, l'ultima notizia che riguarda il settore energetico, la fattura energetica dell'Italia, cioè quello che il nostro paese spende per approvvigionarsi di energia all'estero, si stima per il 2020 intorno ai 23,3 miliardi di euro, in calo di oltre 16 miliardi rispetto allo scorso anno, un tracollo del 41% e un calo di 30 miliardi rispetto a 10 anni fa. Per trovare i valori simili alla spesa di quest'anno occorre tornare indietro di 30 anni, è la stima dell'Unione Energie per la Mobilità, l'UNEM, contenuta nel preconsuntivo petrolifero 2020, in cui si evidenzia il calo dei consumi di energia con le misure di lockdown legate alla pandemia. E adesso, a proposito di iniziative legate alla pandemia, sentiamo cosa è successo oggi a Francoforte. Novità dal direttivo odierno della Banca Centrale Europea: i mercati si aspettavano un potenziamento del piano pandemico, si aspettavano la conferma di tutte le iniziative già in corso, più con qualche ricalibratura da parte della BCE, come la Christine Lagarde aveva annunciato qualche settimana fa. Qualche intervento è arrivato. Per la verità, per qualche momento i mercati non erano stati particolarmente convinti della natura delle misure. Vi faccio sentire adesso che cosa ha detto Christine Lagarde, e poi saluto anche l'ospite che commenterà con noi questa giornata, Donato Masciandaro, professor Masciandaro, docente di politica monetaria all'Università Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera, grazie dell'invito. E allora, grazie a lei naturalmente per averlo accettato. La Banca Centrale Europea ha ricalibrato, come vi dicevo, la manovra pandemica, aumentando di 500 miliardi gli acquisti di titoli nel cosiddetto programma PEPP, che ora raggiunge i 1.850 miliardi. Il piano viene anche prolungato in termini temporali di 9 mesi e durerà almeno fino a marzo 2022, perché Christine Lagarde ha detto vedremo poi quale sarà la situazione, non è detto che non debba essere ulteriormente procrastinato. Qualche timore i mercati lo hanno avuto quando Christine Lagarde ha rilasciato appunto le sue proiezioni sulla crescita del PIL per il 2020 e anche per il prossimo anno. Poi le borse si sono riprese. Io vi farei sentire subito qualche dichiarazione appunto di Christine Lagarde. Partiamo proprio su questa sua frase sul prodotto interno lordo dell'Eurozona. The rebound of economic activity in the third quarter was stronger than expected. Il rimbalzo dell'attività economica nel terzo trimestre è stato più forte del previsto e la prospettiva dell'arrivo del vaccino è incoraggiante. Ma la pandemia continua a mettere a rischio la salute pubblica e le economie dell'Eurozona e di tutto il mondo. Il ritorno dei contagi da Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento stanno riducendo in modo rilevante le attività economiche nell'Eurozona, dove è quindi lecito aspettarsi una contrazione del PIL nel quarto trimestre del 2020. L'inflazione rimane molto bassa in un contesto di domanda debole e di un mercato del lavoro fiacco. Le nostre stime vedono la variazione del PIL dell'Eurozona a meno 7,3% nel 2020, più 3,9% nel 2021, più 4,2% nel 2022 e più 2,1% nel 2023. Rispetto alle stime di settembre, le previsioni sono state riviste al ribasso nel breve termine. Nel complesso i rischi restano al ribasso, anche se sono diventati meno pronunciati. La notizia dell'arrivo del vaccino a breve è sicuramente incoraggiante e il rischio al ribasso è riferito alle conseguenze della pandemia sulle attività economiche e finanziarie. Downside risks remain related to the implication of the pandemic for economic and financial conditions. Professor Masciandaro, chissà quante volte ancora prossimamente dovremo riaggiornare le stime sull'andamento del PIL nell'Eurozona, ma direi a livello globale. Allora, i punti di forza e i punti di debolezza dell'intervento di oggi della Banca Centrale Europea, tutto come nelle attese o anche lei è rimasto un pochino così deluso come è successo al mercato a metà pomeriggio quando ha avuto questa sbandata perché non era proprio convinto di questa ricalibratura, di questo ampliamento delle misure decise a Francoforte? I mercati si sono come dire, dispiaciuti, preoccupati, perché per vincere una gara c'è un tandem, politica monetaria e politica fiscale. Ora, quando la politica monetaria fa di tutto e poi si gira e guarda che dietro e il secondo vede che non pedala e continua a dire che il secondo dovrebbe pedalare, questa non è una buona notizia. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la Banca Centrale Europea continua a pedalare, ma nel tandem si pedala in due. E che cosa stiamo vedendo sul lato della politica fiscale europea? Nulla. Quindi poi i mercati innanzitutto scommettono su se stessi, quindi una notizia apparentemente positiva. Tutto sommato la ripresa è forse più vicina perché è più vicina alla speranza dei vaccini. Sì. Il mercato quasi si dispiace perché tiene di vedere meno liquidità. Ora, quello che fa bene all'economia non è detto che faccia bene ai mercati, però c'è un fatto: qui c'è un ciclista che continua a pedalare e l'altro che guarda. Esatto, che va un po' a ramingo, come si dice anche in un gergo che non è né tanto finanziario, poco giornalistico, ma insomma è un modo di dire, va a traino senza prendersi tante responsabilità appunto di sostenere, quindi si fa, è un gregario a metà, potremmo dire. Professor Masciandaro, c'è la pubblicità, adesso le chiedo un minuto di pazienza e poi torniamo a ragionare con lei sulla ultima riunione di questo 2020 terribile della Banca Centrale Europea. Focus Economia. The Governing Council decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Il consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento. Resteranno a questo livello o addirittura più basso, fino a che le prospettive di inflazione inizieranno in modo robusto a convergere a un livello prossimo ma inferiore al 2%. Abbiamo inoltre deciso di aumentare la dotazione del programma di acquisti pandemico, il PEP, di 500 miliardi di euro, portandolo così a un totale di 1.850 miliardi. Abbiamo anche esteso la durata del programma di acquisti PEP almeno fino alla fine di marzo 2022. In ogni caso, porteremo avanti questi acquisti fino a quando il Consiglio direttivo considererà terminata questa fase pandemica. Gli acquisti del PEP hanno lo scopo di mantenere condizioni di finanziamento favorevoli per tutta la durata del periodo. Se le condizioni di finanziamento resteranno favorevoli con un ammontare di acquisti che non esaurisce la dotazione del programma entro la sua scadenza, non è necessario che si esauriscano tutte le risorse. Allo stesso modo, la dotazione del programma potrà essere ricalibrata secondo necessità per continuare a mantenere condizioni di finanziamento favorevoli che aiutino a contrastare gli effetti negativi della pandemia sull'inflazione. To help counter the negative pandemic shock to the path of inflation. Professor Masciandaro, grazie per aver atteso. Abbiamo riproposto un'altra dichiarazione di oggi di Christine Lagarde, che adesso, come ha notato, ha ripreso ad essere molto attenta anche nel linguaggio che utilizza per rassicurare il mercato. Dice, insomma, se le cose non dovessero andare bene, noi saremo sempre qua pronti a rimettere a posto le misure ed implementarle quando necessario. Ci sono degli ascoltatori che ci chiedono, ed era esattamente la domanda che sarebbe piaciuto poi farle anche a me, il tema che lei suggeriva prima. Ma utilizzando la metafora e l'immagine del tandem, è inutile che guidi uno se l'altro che sta dietro non fa nulla e anzi risulta essere un peso. Il tema degli interventi di natura fiscale degli stati. Un ascoltatore ci chiede, professor Masciandaro, ma cosa può fare l'Unione Europea a livello fiscale? La discussione di questi giorni sul recovery fund, MES sanitario e quant'altro, sono interventi di questo tipo oppure c'è proprio un disegno specifico che dovrebbero scrivere appunto gli stati per dare un sostegno adeguato alla BCE che già sta inondando di liquidità il sistema? Ottima domanda quella dell'ascoltatore. Io ho utilizzato il termine fiscale nella accezione macroeconomica, con cui si comprendono tutti gli interventi diretti dello Stato dal lato della spesa pubblica come dal lato della tassazione. È chiaro che qui il tandem significa che bisogna essere efficaci e efficienti, veloci, sul Next Generation Fund. E per favore non lo chiamiamo più recovery. Perché in tutta Europa si chiama Next Generation e noi lo chiamiamo recovery? Non serve per il consenso politico. Non sappiamo bene l'inglese, professore, così parlo per me magari. Sto scherzando ovviamente. No, ha ragione. Diamo l'identità giusta. Le parole sono importanti. Forse lo diceva Nanni Moretti in un film. Le parole sono importanti. Questi fondi servono per i nostri figli e per i nostri nipoti, non per il consenso degli attuali governi in carica, in Italia o all'estero. Quindi qui c'è c'è un attore mancante e c'è un paradosso, perché dei due c'è uno che sta pedalando al massimo e l'altro non sta facendo nulla, però ad essere punito è quello che pedala. Certo, ma ci fa l'esempio dell'intervento come chiedeva l'ascoltatore? L'intervento è essere veloci sul definire nelle cancellerie nazionali e a Bruxelles che cosa si vuol fare in termini di spesa pubblica e come la si vuol finanziare. Voglio dire, non dobbiamo continuare con le braccia conserte ad aspettare i fondi dell'Europa. Che cosa stiamo facendo in Italia? Questo credo che ciascun ascoltatore avrà una sua risposta, quindi la mia non è diversa da quella degli No, ma era intanto per capire appunto che cosa ci si deve aspettare anche da un accademico. È importante appunto avere una chiave di lettura, un'interpretazione rispetto a queste dinamiche che spesso per noi sono abbastanza complesse. Professor Masciandaro, un'altra forte distorsione che però tutti questi interventi delle banche centrali sta determinando appunto sul mercato è questa storia dei titoli di Stato a rendimento sempre più negativo. Ormai stiamo sperimentando il territorio negativo su scadenze sempre più lunghe. Quanto è sostenibile? Certo, il debito pubblico italiano ne è ben felice, però è anche vero che non è una situazione di normalità questa, anche se qualcuno dice questa ormai è la nuova normalità alla quale ci dobbiamo adattare. E però per questa Next Generation EU non è che stiamo lasciando una gran bella eredità, è comunque un fattore che prima o poi diventerà problematico. Lei come valuta questo aspetto? L'aspetto è il seguente: se sta bruciando una casa, la si inonda di acqua, il che significa che se si continua per tanto tempo l'incendio si spegne, ma forse marciscono immobili. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci preoccupiamo, sì, ci saranno dei problemi. In questo momento la priorità è spegnere l'incendio. Mm-hmm. Però se pensiamo solo a inondarla di liquidità e non facciamo altro, la probabilità che questo eccesso di liquidità crei dei danni, anche non consapevoli, sicuramente non consapevoli, cresce con il passare del tempo. Professor Masciandaro, la ringrazio per essere stato con noi, leggeremo molto volentieri nei prossimi giorni altri suoi editoriali su questi argomenti, sull'attività della Banca Centrale Europea, sui temi di politica monetaria. Grazie per essere stato con noi, io ormai mi sento autorizzata a cominciare a dare a tutti gli auguri per le prossime feste. Grazie, buona giornata, grazie, buona serata. A presto, abbiamo la pausa, andiamo in pausa allora. Focus Economia. E allora abbiamo già largamente argomentato misure adottate oggi, comunicate oggi dalla Banca Centrale Europea, e peraltro Christine Lagarde ovviamente ha anche espresso le sue indicazioni sulla crescita del PIL di quest'anno nell'Eurozona e per l'anno prossimo. Peraltro forse non mi ricordo neanche se poi i dettagli di questo PIL visto per quest'anno e l'anno prossimo ve li ho dati. La BCE ha migliorato la sua stima di crescita economica per l'Eurozona quest'anno portandola a meno 7,3% da meno 8 di settembre, ha però peggiorato le stime per il 2021 a più 3,9% da più 5% precedente. Questo è stato il dato che ha innervosito ad un certo punto la seduta di borsa. La mattinata andava bene, il quadro era tutto positivo, poi nel pomeriggio una sbandata. Non vi ho dato neanche l'andamento di Wall Street, che è leggermente negativa, meno 0,24% per il Dow Jones e meno 0,09% per lo Standard & Poor's. Torna ad essere positivo il Nasdaq, che recupera dopo il meno 2 di ieri, più 0,54%. Sui temi di Piazza Affari, Flavia Carletti, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Buonasera Flavia. Buonasera a tutti. Milano meno 0,25% e verso il finale i protagonisti inevitabilmente diventano i titoli petroliferi, con il petrolio europeo, il Brent, che ha ritrovato i $50 che non vedeva da marzo. Sì, appunto, oggi c'è stato questo andamento un po', come dicevi tu, altalenante. Proprio sul finale sono emersi i rialzi di Saipem, Tenaris ed Eni, in particolare di Saipem, che ha chiuso in testa il FTSE MIB con un rialzo del 2,8%, ma sono andati bene anche Tenaris, che ha guadagnato l'1,5% e l'Eni l'1%, e in qualche modo hanno un po', diciamo, permesso all'indice di recuperare leggermente rispetto ai minimi. Il FTSE MIB oggi nel corso della seduta era arrivato a perdere anche oltre un punto percentuale, e questo andamento è proprio legato al rialzo del prezzo del petrolio. Il Brent ha superato i $50 al barile, anche il WTI è in forte rialzo, hanno trovato livelli che non vedevano da marzo di quest'anno, quindi il petrolio è ai massimi da 9 mesi nel corso del 2020, e nonostante siano arrivate indicazioni un po' tinte fosche dalla BCE sulla ripresa economica, complice anche forse un po' l'indebolimento del dollaro, c'è stata questa ripresa del petrolio che ha permesso ai titoli legati al settore di risalire, e per esempio nel caso di Milano un po' di limitare le perdite e di permettere per esempio a un listino come quello di Parigi di chiudere sulla parità, perché sono andati a Parigi molto bene sempre due titoli petroliferi, Technip FMC, che è una società analoga a Saipem, e Total, che è uno dei più grossi gruppi petroliferi al mondo. Andiamo agli altri temi della seduta. Allora, ieri è stata una giornata veramente da dimenticare per STM, ma non è che oggi sia riuscita a recuperare, mi pare, perché pure in cassa un meno 1,67%. Non è il peggior titolo, già il, come dire, questo trofeo lo aveva portato a casa ieri, ma insomma questa revisione delle vendite, mi pare, complessive che il gruppo riuscirà a realizzare nei prossimi 2 anni, ieri è stata veramente colta malissimo dagli operatori finanziari. Sì, esattamente, ST ieri ha perso il 12%, anche oggi è stata in calo, non come ieri, però comunque è uno dei titoli più deboli del FTSE MIB, perché c'è stata, diciamo, questa revisione che è stata colta, che ha colto un po' di sorpresa, diciamo, il mercato, e la cosa proprio che non è piaciuta né ieri e continua a non piacere anche oggi è il fatto che il gruppo ha rinviato di un anno, dal 2022 al 2023, il target di vendite che si era dato in precedenza, che era di 12 miliardi di dollari l'anno, e il fatto che, dice l'amministratore delegato del gruppo, ha detto la situazione ormai è diversa, il mondo è cambiato rispetto a quando avevamo dato le stime precedenti, c'è di mezzo il Covid e quindi non è più possibile per noi raggiungere questo target. E diciamo, la notizia ha colto, appunto, come dicevo, di sorpresa un po' il mercato e ha scatenato le vendite oggi non solo su ST ma anche su altri titoli del settore. Infatti oggi il sottoindice settoriale di titoli tecnologici europei è stato uno dei peggiori, complice anche il calo di oltre 2% di Infineon alla borsa di Francoforte, che è appunto una società che è attiva nello stesso settore di ST, che è quello dei microprocessori. Esatto, i microchip. Sì, ormai sai che in questi mesi siamo diventati super esperti di tecnologia, di tutte le piattaforme, soprattutto per fare tutti i lavori da casa, ma stare ugualmente connessi e lavorando, naturalmente, fare tutti i nostri collegamenti. Peraltro, appunto, è anche molto interessante effettivamente questa reazione di borsa su STM in un mercato che tecnologico tutto è in grande fermento in questo momento, eppure chiaramente basta una revisione di un target per far tracollare un titolo che comunque continua ad essere estremamente promettente. Allora, altri temi da segnalare: il settore bancario, come è andato oggi? Ma oggi, appunto, poi sul finale ha leggermente recuperato in parte, per esempio Biper, che comunque era debole, alla fine è riuscita a salire di un più 0,4%, mentre invece, diciamo, il titolo più penalizzato tra quelli a maggiore capitalizzazione alla fine è stato Banco BPM, che ha perso il 2%, però anche Unicredit ha perso l'1,6%. E Intesa San Paolo ha perso lo 0,77%. Diciamo che questi titoli ultimamente si stanno muovendo molto sempre sulle voci di M&A, a seconda delle speculazioni un po' anche che vengono riportate dai giornali, c'è sempre attesa su quello che succederà. Oggi non c'erano novità da questo punto di vista, però di fronte agli annunci della BCE alcuni operatori in qualche modo sono rimasti delusi dal fatto che probabilmente qualcuno si aspettava un miglioramento delle condizioni per le concessioni di prestito alle banche e anche un tasso di rifinanziamento più basso per le misure LTRO che sono in corso. Questo non c'è stato e quindi in qualche modo forse qualche banca è stata un po' più penalizzata di altre. Il settore bancario sempre in Europa a livello generale è stato uno dei più venduti, ha perso quasi 2 punti percentuali a livello settoriale europeo, quindi probabilmente questa attesa di una parte degli operatori che potesse esserci negli annunci di oggi della BCE anche un miglioramento delle loro condizioni di prestito, che non c'è stato, quindi ha, diciamo, permesso forse un po' più di vendere questi titoli piuttosto che altri. Sono giornate, Flavia, ancora un minuto di tempo prima di salutarci, molto calde a Wall Street perché si stanno quotando diverse società, è tempo proprio, come si dice, di IPO. Ieri è toccato alla più grande piattaforma, appunto, americana di consegna di pasti a domicilio, DoorDash, se non mi ricordo male, quotata intorno ai $100, ad un certo punto in avvio di contrattazione è schizzata a 180, quindi un esordio assolutamente buono, ma sta arrivando un'altra grande società, appunto, pronta a sbarcare a Wall Street. Sì, oggi è il giorno di Airbnb, che è appunto il colosso, quello degli affitti brevi, che dà la possibilità di prendere case, stanze in affitto un po' in tutto il mondo. E nonostante questo momento un po' di crisi del turismo, del settore dei servizi, Airbnb comunque ha voluto confermare la sua volontà di quotarsi e oggi è atteso lo sbarco a Wall Street. Quando un titolo esordisce, il prezzo non viene mai fatto al momento, diciamo, del suono della campanella. Potrebbe arrivare in un qualsiasi momento il prezzo definitivo dell'esordio, però al momento ancora non lo abbiamo. Però diciamo che il prezzo fissato dall'IPO è di $68 ad azione, che valorizza la società una capitalizzazione di $47 miliardi, e questa cifra è comunque superiore alle due forchette di prezzo che la società aveva dato, cioè c'era stata un'ipotesi originale tra $44 e $50, che poi è stata aumentata tra $56 e $60, per essere poi alla fine al prezzo definitivo fissato per la PIA ulteriormente alzata a $68. Quindi in qualche modo c'è una fiducia da parte degli investitori su il futuro di Airbnb, anche se in questo momento, diciamo, soffre anche questo, esatto, gruppo l'andamento un po' del turismo alla luce della pandemia. E che quando apriranno i recinti, Flavia, chi starà più a casa? Saremo tutti in giro disperati, non avremo più neanche un posto dove stare, perché ovviamente non vediamo l'ora di ricominciare a viaggiare. Grazie a Flavia Carletti, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, tempo di giornale radio, ma torniamo subito dopo. Che programmi avete il weekend? Io ne ho due con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana e poi alla domenica. alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto. Da Conad dai uno sprint alle buone abitudini con il grande concorso e l'imperdibile collezione Tupperware. Fino al 27 dicembre, più pezzi collezioni, più possibilità hai di vincere una delle 300 bici elettriche. Info e regolamento completo su tupperware.conad.it. Conad, persone oltre le cose. Stile, il magazine distribuito in mailing diretto con il Sole 24 Ore in tutta Italia e in Europa in lingua inglese. Stile, la rivista di design, architettura, tecnologia, arte, moda e tendenze. Le storie di eccellenza del Made in Italy attraverso le testimonianze dirette degli imprenditori. Per ricevere in omaggio Stile con la copia del Sole 24 Ore, chiama l'800-97-97-17. Stile, il valore del bello e della tecnologia. È un progetto Publiscoop Group. Merbag è il più grande gruppo svizzero retail Mercedes-Benz, leader in Europa. Oggi è presente a Milano in una delle più belle concessionarie al mondo, dove potrai toccare con mano tutta l'offerta di Mercedes-Benz, AMG, Smart e usato garantito Certified. Lo staff qualificato di Merbag è pronto ad accoglierti e farti vivere un'esperienza unica. Vieni a trovarci presso i nostri showroom a Milano oppure visita il nostro sito www.merbag.it. Merbag, qualità svizzera con cuore italiano. Ti aspetta. Fare le riunioni in ciabatte sarà anche comodo, ma poi quando viene l'ora... chi cucina? Ti manca la pausa pranzo da Burger King, eh? Con il takeaway ordini tutti i tuoi menù preferiti in completa sicurezza, per gustarli dove vuoi. Burger King, a modo tuo. Fare o non fare, non c'è provare. Se volete conoscere chi ha reso questa massima uno stile di vita, seguitemi. Sono Laura Bettini, vi aspetto ogni sabato e domenica con Si può fare alle 8.30 su Radio 24. Si può fare. In collaborazione con Unicredit Social Impact Banking. Per fare bene, bisogna fare del bene. Scopri di più sul nostro sito unicredit.it/social impact banking. Focus Economia. Eccoci di nuovo ritrovati, ancora buonasera da Deborah Rosciani. Ci mancano tre temi da completare prima dei saluti a Focus Economia e allora procediamo subito con il racconto di questa nuova giornata molto importante per Ilva, per la ex Ilva, perché lo Stato rientra nel capitale dell'azienda dell'acciaio e attesa a ore, forse a minuti, la firma per questo accordo. Ci racconta tutto Domenico Palmiotti, il Sole 24 Ore. Domenico, buonasera. Buonasera Deborah, sì, come dicevi tu, ormai la firma è imminente, attesa a minuti, probabilmente comunque entro la serata. Si chiude così questo faticoso accordo che ha richiesto diversi mesi di negoziato. Lo Stato entra in ArcelorMittal, entra in quella che conosciamo come Ilva, ma più che entra possiamo dire che ritorna, perché lo Stato era in Ilva già 25 anni fa, quando cedette l'azienda a Riva. Poi c'è stata l'inchiesta giudiziaria, la gestione commissariale, la vendita, la cessione ad ArcelorMittal, sino alle vicende di questi mesi e sfociate in queste ore nell'accordo. Che cosa determina questo accordo? A febbraio lo Stato entrerà con un aumento di capitale che sottoscriverà Invitalia col 50% in ArcelorMittal, un aumento di capitale di 400 milioni, dopodiché a giugno 2022 salirà al 60% lo Stato, sempre con Invitalia, attraverso un nuovo aumento di capitale calcolato in circa 700 milioni. La governance dell'azienda sarà condivisa. In questa primissima fase lo Stato esprimerà il presidente, ArcelorMittal l'amministratore delegato, poi nel giugno 2022 le parti si invertiranno, cioè lo Stato avrà l'amministratore delegato e ArcelorMittal il presidente. Qual è l'obiettivo di questo piano che durerà 5 anni? E soprattutto a cosa serve questa iniezione di capitale iniziale e poi anche la seconda tranche, Domenico? Sì, la seconda tranche certo sono a carico di Invitalia. Qual è l'approdo di questo percorso, di questo piano che durerà 5 anni? Nel 2025 dovremmo avere un gruppo nuovo dal punto di vista industriale, sostenibile ambientalmente, soprattutto con una produzione di 8 milioni di tonnellate, che sarà fatta in parte con l'alto forno tradizionale e in parte col forno elettrico. Il forno elettrico è un debutto perché è una tipologia di impianto che a Taranto non c'è. L'occupazione nel 2025 tornerà in integra, cioè tornerà a quella attuale, 10.700, però dal 2021 al 2024-25 ci sarà una lunga transizione di cassa integrazione che comincerà già l'anno prossimo con 3.000 cassi integrati. È un accordo di svolta, non è un'operazione finanziaria, ma dice lo Stato, dice il governo, dice Invitalia, un'operazione industriale di rilancio di un polo siderurgico in chiave di sostenibilità. Non a caso si accederà anche a risorse del Recovery Fund. C'è però il dissenso delle istituzioni di Taranto e del sindaco, che ritiene questo piano non convincente, non adeguato e che non dà risposte soprattutto sul grande tema dell'ambiente e della salute. Quindi questo era il punto che mettevano sul piatto appunto gli amministratori del territorio. Ci spieghi un po' meglio, Domenico, poi ti lasciamo. Tra l'altro si sa a che ora verrà firmato? Come mai alle 18 ancora non esiste una chiarezza da questo punto di vista? Non è che rischia di... In ogni caso no, la firma è data per stasera, perché oggi appunto era la scadenza finale che nel preliminare che avevano firmato Invitalia al Salone Invitalia il 30 novembre appunto si fissava come data limite il 10 dicembre. Credo che sia veramente questione di poco, probabilmente poi si sta anche vedendo da un punto di vista di procedure, di diplomazia, probabilmente sarà prima il governo a dare l'annuncio. Poi ci sarà anche sicuramente un annuncio della corporate, del quartier generale di ArcelorMittal, che ha sede a Londra, anche perché ci sono degli obblighi, perché ArcelorMittal è una società quotata. Certo. Mi fa un po' impressione, rileggendo anche il pezzo che hai fatto tu per il sito del Sole 24 Ore, Domenico, che ovviamente, naturalmente, per tutti gli attori che sono seduti intorno al tavolo di queste trattative, che ormai sono concluse perché si va a firma, ci sia Domenico Arcuri, perché è l'amministratore delegato di Invitalia, naturalmente, quindi tra un vaccino e una mascherina ha portato avanti anche questa operazione. Non voglio fare una battuta, non voglio far ridere nessuno, semplicemente mi colpiva, perché chiaramente lo tiriamo in ballo per ogni cosa in questo periodo, però ha portato avanti anche la firma di questo accordo importante. Sì, certo, sì. Praticamente lo Stato inizialmente, prima dell'estate, era indeciso se schierare CDP o Invitalia. Alla fine ha optato per Invitalia. Diciamo che l'accordo di coinvestimento dello Stato era già previsto a marzo, quando praticamente siglarono una tregua Ilven Amministrazione Straordinaria, che è la proprietaria degli impianti, e ArcelorMittal. Però poi diciamo il coinvestimento dello Stato si è palesato con più evidenza a giugno, quando ArcelorMittal ha presentato un piano che prevedeva oltre 3.000 esuberi e che il governo bocciò subito, dicendo che quel piano non rispettava il patto di marzo. E da allora è cominciato appunto un negoziato, da allora Invitalia è stata schierata in campo ed è andata avanti tutta questa trattativa che si è conclusa, si sta concludendo in queste ore. E Invitalia esprimerà anche il presidente della nuova società, si fa il nome di Ernesto Somma, che è un manager appunto di Invitalia molto vicino ad Arcuri. Per una singolare coincidenza l'azienda torna allo Stato ed oggi uno dei vecchi proprietari dell'Ilva, Fabio Riva, è stato assolto in corte d'appello di Milano dal reato di bancarotta per quanto riguarda il crack finanziario della Riva Fire, che era l'holding che controllava anche l'Ilva. Sappiamo bene che appunto Riva prese l'Ilva 25 anni fa dallo Stato, poi l'azienda fu tolta al gruppo Riva nel 2013 a fronte delle vicende ambientali, sì, dell'inchiesta giudiziaria, da lì poi si insediarono di commissari, poi l'avvento di ArcelorMittal, alla luce di questo aspetto effettivamente allora la firma assume anche un valore simbolico ulteriore. Grazie Domenico, buon lavoro. Grazie e buona serata, e noi andiamo ad occuparci di un altro argomento. Se lo so che in realtà devo andare in pausa fra un attimo, però ne approfitto intanto per salutare e ringraziare per essere con noi Nadia Linciano, responsabile dell'ufficio studi economici di Consob. Buonasera dottoressa Linciano. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Un minuto di pausa, andiamo in pubblicità e poi le lascio raccontare il rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane presentato questa mattina con delle notizie molto interessanti. La crisi morde, gli italiani continuano ad accumulare liquidità sui conti correnti, ma quest'anno hanno fatto anche delle scelte finanziarie un po' più coraggiose di quello che potevamo pensare. Dopo lo sentiremo. Focus Economia. Allora, eccoci ritrovati in diretta. Come vi dicevo, questa mattina la Consob ha presentato il suo ultimo rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, un rapporto annuale che negli ultimi anni chiaramente ci ha descritto uno spaccato molto interessante per quello che riguarda le scelte di investimento dei nostri concittadini. Si interpella un campione di, lo vado a rileggere, 3.274 individui. Dottoressa Nadia Linciano, ancora buonasera. Allora, la crisi morde naturalmente, condiziona anche le scelte di risparmio e di investimento delle famiglie, ma ho letto questa mattina dalle prime anticipazioni delle agenzie quando stavate presentando il rapporto che per la verità qualche scelta di investimento un po' più audace di quella che potevamo immaginare quest'anno le famiglie l'hanno fatta. Un po' più sul mercato dei capitali gli investitori risparmiatori ci sono andati, è così? Sì, è così esattamente. Effettivamente la crisi morde, il 30% degli intervistati ad esempio dichiara di non essere in grado di fronteggiare una spesa in attesa di 1.000 euro, poco più del 30% afferma di aver subito una riduzione temporanea o permanente del proprio reddito, però al tempo stesso abbiamo osservato un aumento della quota di intervistati che posseggono almeno uno strumento finanziario, quindi che sono entrati e hanno partecipato ai mercati finanziari, dal 30% a fine 2019 al 33%. E inoltre, come emerge da dati di vigilanza, durante i periodi della crisi gli italiani hanno messo in atto una strategia di investimento cosiddetta contraria, cioè hanno acquistato più che venduto le azioni. Quindi il timore, diciamo, che si potesse scatenare un panic selling in un periodo in cui i mercati erano particolarmente volatili non è confermato dai fatti, perché gli italiani hanno effettuato degli acquisti netti, quindi acquisti superiori alle vendite. Mm-hmm. Sì, diciamo che questo non panico, ma insomma questa preoccupazione importante c'è stata tra marzo ed aprile, ma è rimasta isolata poche settimane, circoscritta, dopodiché hanno ricominciato appunto a reinvestire gli italiani. Generalmente lo fanno quando sono seguiti da consulenti finanziari, perché se devono fare da sé queste scelte allora rimangono un pochino più cauti e più prudenti. Che rapporto c'è con il mondo della consulenza finanziaria? Perché appunto noi diciamo sempre, descriviamo sempre gli italiani come dei grandi risparmiatori, ma sono degli investitori più modesti e in queste scelte vanno accompagnati. Da questo punto di vista, che cosa rileva il vostro rapporto? Anche da questo punto di vista il rapporto rivela una novità significativa, perché è aumentata la quota di intervistati che si rivolge a un consulente. Siamo infatti al 41% degli intervistati, era il 30% nel 2019, mentre si è ridotta la percentuale di persone che decidono da sé, che fanno in autonomia. Siamo ora al 29% a fronte del 40% del 2019. Nel complesso il rapporto con la consulenza è un rapporto a lusi ed ombre, perché gli investitori non apprezzano appieno il valore del servizio. Oltre il 50% delle persone assistite da un consulente ritiene di non sostenere alcun costo per le raccomandazioni, i consigli che riceve dal consulente. È una cosa poi che abbiamo sempre notato nel nostro rapporto: una frazione significativa, oltre un terzo degli intervistati, non è disposto a pagare per la consulenza. Dottoressa Linciano, un'ultima domanda. Lei lo sa, glielo chiedo sempre ogni volta che la portiamo in radio. Un paio di anni fa, se non ricordo male, il vostro rapporto descriveva gli italiani come delle persone in preda ad un'ansia finanziaria. Quantomeno questo è il sentimento prevalente quando si tratta di assumere delle decisioni finanziarie per sé e per la famiglia. Gli italiani vengono pervasi da questo sentimento, quello dell'ansia finanziaria. Riguardandolo, non l'ho letto ancora bene il rapporto di quest'anno, ma mi pare che questo sentimento momento non lo descriviate più, non utilizziate più questo termine. È così? Ci sarà ancora preoccupazione, perché con l'anno che abbiamo passato possiamo facilmente immaginare che la preoccupazione ce ne sia ancora molta e sia anche profonda per alcuni nuclei familiari, magari dove si è perso il posto di lavoro e sono successe appunto queste cose. Ma l'ansia finanziaria, certo, ci condiziona ancora? Beh, l'ansia finanziaria ci condiziona ancora. Noi nel rapporto abbiamo introdotto anche degli indicatori un po' più mirati. Per esempio, abbiamo chiesto alle persone se si ritengono efficaci da un punto di vista finanziario, cioè se si ritengono in grado di raggiungere i propri obiettivi, e quasi il 70% in realtà è particolarmente preoccupato al proposito, perché si sente incapace di raggiungere gli obiettivi finanziari prefissati. C'è al tempo stesso una grossa preoccupazione per risparmio previdenziale. Oltre il 50% si interroga sulla sua capacità di mantenere inalterato lo stile di vita una volta che sarà uscito dal mercato del lavoro, e a questo si accompagna poi anche una scarsa visione del proprio futuro dopo il lavoro, una scarsa consapevolezza ad esempio degli anni che rimangono da lavorare, delle risorse che sarà necessario accumulare per mantenere inalterato lo standard di vita e delle risorse di cui si avranno a disposizione una volta pensionati. Grazie a Nadia Linciano, responsabile dell'ufficio studi economici di Consob, per essere stata con noi. Torneremo su questo rapporto, sicuramente lo andremo a leggere nei dettagli prossimamente, commenteremo tutti gli aspetti che riguardano la nostra vita di risparmiatori ed investitori. A presto, buona serata e buone feste naturalmente. Inizio grazie già a dirlo. Grazie anche a noi radioascoltatori. Buona gli serata. Ultimi 5 minuti di tempo, ricambiamo di nuovo argomento. Allora, abbiamo parlato di scelte finanziarie degli italiani, scelte che si fanno anche utilizzando banche e intermediari che stanno rendendosi sempre più snelli, più veloci, più smart grazie al fintech, l'innovazione finanziaria, l'innovazione tecnologica applicata al mondo finanziario. Proprio in questi giorni, oggi e domani, si tiene il primo Milan Fintech Summit. Avrei voluto dire a Milano, ma essendo tutto digitale non sappiamo bene da dove parta tutta questa iniziativa. In realtà si sarebbe dovuto svolgere fisicamente a Milano. Si parlerà naturalmente anche di questo, si parlerà soprattutto di questo mondo, di tutti i soggetti, di tutti gli attori che lo popolano, di tutta quella che è l'innovazione appunto tecnologica e digitale applicata al mondo del risparmio, degli investimenti e all'industria finanziaria. Carlo Antonelli, amministratore delegato di Fiera Milano Media, buonasera. Buonasera. Fiera Milano Media è la società del gruppo Fiera di Milano specializzata nell'editoria professionale, nella comunicazione B2B, nella formazione manageriale, e quindi a lei spetta il compito di raccontarci in che cosa consiste questo evento. 3 minuti, ma io le dico subito che sono andata a curiosare immaginando di vedere già qualche evento live, e invece il sito di Milano Fintech Summit funziona esattamente come una fiera da remoto. Bisogna pagare un biglietto per entrare, esatto, e per assistere a tutto quello che c'è, ma mi sembra anche corretto visto che avete dovuto trasferire tutta la vostra vita in questo contesto digitale. Molto Antonelli, velocemente possiamo dire che Fiera Milano Media ha molto velocemente dall'inizio di marzo cancellato tutti gli eventi fisici e trasformato tutti gli eventi fisici in eventi digitali. Siamo stati i primi a trovare il modo di, sperimentando piattaforme su piattaforme, lavorando devo dire come dei pazzi, a questo ruolo ovviamente, a trasformare convegni fisici in convegni digitali, convegni formativi. A giugno a trovare sponsorizzazioni, a far pagare biglietti per entrare in piattaforme di formazione, quindi questa devo dire fortissima propulsione che abbiamo impresso alla nostra attività ci ha portato a lavorare, ma già è un anno che abbiamo in incubazione il Milano Fintech, ha un perfetto, diciamo, speriamo, funzionamento in questo video, perché c'è ancora un giorno di questo tipo di macchina che diventa una macchina molto naturale, non c'è, perché si paga appunto un biglietto, si entra, si riproducono gli stand. Non siamo stati soli a farlo, ma siamo stati certamente primi, e questo ci consente di garantire un'esperienza molto fluida un'esperienza molto fluida, che peraltro è molto simile a quella della velocità con la quale il mondo del fintech e lo stesso proprio tocco che avviene attraverso un pagamento digitale sono sviluppati in modo clamoroso in questi anni, in modo, devo dire, molto significativo nel 2020, come una delle poche industrie che ha avuto una crescita estremamente marcata e come evidentemente in realtà di produzione di lavoro attraverso start-up che si misurano però con investitori che hanno di fronte delle soluzioni realmente funzionanti e non solo delle idee. E questo avviene per il 45% a Milano, da qui il titolo e da qui ovviamente la promessa che ci auguriamo di poter mantenere, perché viviamo in una condizione di totalmente sconosciuta, di avere poi un'edizione fisica, ma a questo punto sicuramente un'edizione ibrida, come sarà anche per tutte le fiere che avranno da questo momento in poi quando sarà possibile, sempre ovviamente qua a Milano dal 4 al 5 ottobre del 2021. Grazie a Carlo Antonelli. Perché i numeri sono molto alti, sono 1500 le persone iscritte, certo. E la situazione è quella di una piattaforma estremamente brulicante, cioè possiamo già dire che siamo estremamente contenti del risultato di stati. Ma certo, anche perché diciamo che questa modalità in remoto paradossalmente ci consente di risparmiare molto tempo che prima dedicavamo agli spostamenti, adesso magari possiamo approfittare nel, come dire, di seguire più iniziative. Certo, tutto un pochino più frustrante stando a casa, però magari abbiamo l'opportunità di seguire un po' più cose che in tempi normali non avremmo potuto fare. Grazie a Carlo Antonelli, amministratore delegato di Fiera Milano di Fiera Milano Media. Vi ricordo il Milan Fintech Summit, l'evento internazionale dedicato all'innovazione dei servizi finanziari. È tutto, grazie per essere stati con noi. Io torno domani a Due di Denari. Buona serata.